tredicesima puntata. E buongiorno e benvenuti alla puntata odierna di Bonjour Bidon. Io sono Angelo Trofa. E io sono Leonardo Piccione, ciao. Ma oggi, iniziando questa meravigliosa trasmissione, credo che ci sia in questo momento un problema tecnico. Chissà se qualcuno ci sta ancora ascoltando. Proprio oggi sono i francesi che si innervosiscono. Dici? E ci bloccano. Dice che stanno bloccando i francesi. Credo che ci sia un problema, perché la connessione c'è. C'è tutto, non si capisce. Forse l'amorevole Facebook che ci sta dicendo qualcosa. Ci sta dicendo che dobbiamo andare avanti. Perché siamo in diretta. Ah, bene, siamo in diretta. Scusate, avevamo un piccolo problema. Erano i francesi che remano contro di noi, perché noi siamo pronti a dar fiato alle trombe della vittoria. Calma. Sì, rilassati, sì, oggi si stacchino dalle piante gli allori e si pongano infatti in testa al nostro eroe di casa. Ti vedo troppo esaltato. Gli arcangeli segnino nei calendari questa data, perché entreremo nella storia. Calma. Nessuna calma, perché ne parleremo e incominciamo. E buongiorno. Allora, eccoci, buongiorno. E benvenuti alla puntata odierna gloriosa di Bonjour Bidon. Beh, sì, è stata una bella giornata ieri per la Sardegna, mi sembra. Assolutamente, stiamo commentando ovviamente la storica maglia gialla di Fabio Aru, che ieri con una azione agli ultimi metri stacca Froome e va a conquistare il simbolo del primato, come dicono sulla Rai. Il simbolo del primato, primo sardo della storia in maglia gialla. Il primo sardo e nella i giornali storia. Sardi oggi non si sono fatti pregare. Assolutamente, è stata una tappa della quale parleremo dopo, ma noi siamo in Sardegna perché noi siamo a Cagliari, noi siamo vicini al pezzo, anzi sul pezzo, e partiamo subito vedendo cosa ci dicono i giornali sardi su questa storica azione e su questo storico risultato di Fabio Aru. E quindi andiamo a vedere la nostra rassegna stampa. Eccoci qua, sento rumore di giornali. Sì, sì, sono i giornali. Ce li abbiamo veramente. Comincio io? Vai. Io ho l'Unione Sarda, che ha dedicato la prima pagina, c'è Aru in prima pagina, Fabio Aru, 4 mori di felicità. E ti leggo l'incipit dell'articolo, che è molto bello. Dice: è riemerso dall'inferno per vivere il giorno più bello della propria carriera sportiva. Fabio Aru è in maglia gialla. Il cavaliere dei quattro mori, sardo puro sangue, ha portato lo sport isolano a un livello mai raggiunto, mai immaginato prima. È vero, siamo contenti. Ieri è stata una giornata, posso dirlo, perché il problema tecnico iniziale mi ha trattenuto. Ieri è stata una giornata veramente entusiasmante. Anche Leonardo Piccione ha smesso di guardare una serie televisiva e si è alzato sul divano per festeggiare. Giusto quei 3 minuti finali. Sì, assolutamente. Giusto quei 3 minuti. Tra l'altro io ero talmente ottenebrato da quello che stava succedendo che è stato Leonardo che mi ha preso la faccia tra le mani e mi ha detto: Angelo, guarda che Fabio Aru è maglia gialla. E lì non posso ripetere cosa stai ho detto. Stai un po' romanzando l'avvenuto. Ma che se ne frega, romanziamo. Torniamo sull'Unione Sarda, che ci dà informazioni anche su quello che è successo a Villa Cidro, dove il bar di via Gennaro Murgia era pieno di tifosi e di Fabio Aru, si è festeggiato, mancava il papà di Aru. Dov'era? Ieri pomeriggio abbiamo scoperto papà Alessandro era dal dentista. Scusate, è simpaticissimo il padre di Alessandro, di Fabio Aru, ma tu pensa che ti prendono l'appuntamento dal dentista il giorno in cui tuo figlio vince la maglia gialla, prende la maglia gialla. E il giornalista dell'Unione dice: papà Alessandro era anche lui costretto a soffrire, però sulla poltrona del dentista. Chissà, credo che alla fine l'avrà vista sta tappa. Immagino di sì. Invece parliamo della Nuova Sardegna, anche qui prima pagina Aru in maglia gialla. Assolutamente, e poi andiamo a vedere nelle pagine, nella sezione sportiva, un titolo simile a quello dell'Unione Sarda, ovvero Aru veste di giallo i quattro mori. Ecco, diciamo che la nota regionale prende, diciamo, il sopravvento. Il Villa Cidrese stacca Froome nell'ultima salita, arriva terzo e si prende la maglia di leader. L'inizio dell'articolo è anche questo molto sobrio, è: lo ha fatto ancora. Fabio Aru ha attaccato negli ultimi 300 metri sulla salita più difficile, a un passo dall'arrivo ha staccato Froome e si è preso la maglia gialla. Eh beh. Lo ha fatto ancora. Ha fatto ancora. E anche noi faremo ancora. Pensavo che tu fossi il più esaltato, ma invece c'è qualcuno sulla stampa locale che è più esaltato di te da questo risultato di... Vabbè, è qualcosa di abbastanza chiaro. Beh, storico per la Sardegna. Assolutamente. Caso, al di là degli scherzi e della leggerezza. Ovviamente noi che siamo qua possiamo dirvi già che questo risultato è stato vestito di tantissimi colori politici, sportivi, ma a noi non ci interessa, perché l'unico colore che ci interessa adesso a Villa Cidro è il giallo. Ma invece non so quale sia il colore che interessa a Milano, dove dovrebbe esserci il solito ottimo, lo chiami tu? Sì, l'ottimo Filippo Cauz, che oggi, non essendo in Sardegna, non ha diritto allo stacchetto. Ciao Filippo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, non hai la... Milano, il colore che domina è sempre lo stesso, siamo da un secolo in maglia grigia e ci resteremo a lungo. La maglia grigia... di Expo. Devo dire che stavo ascoltando con interesse questa cosa della stampa, perché nel frattempo stavo scrollando un attimo Twitter e c'è questo nuovo gioco che è dire i francesi snobbano Aru, i francesi che si incazzano, che ormai la frase è fatta, anche questa entra nel Tour de France di quest'anno, certo. E tutti a darci contro e poi invece vediamo il grande spazio che ha ad esempio la vittoria di Bardet sulla stampa italiana, no? Vero. Noi sì che guardiamo il mondo a 360 gradi e non ci concentriamo sui nostri nomi. Vabbè, ma è anche vero che noi non organizziamo il Tour de France. Comunque andiamo avanti. Attenzione, vabbè, lineatura. Se vogliamo essere polemici, siamo polemici. Comunque, sì, allora, se vogliamo essere polemici andiamo a vedere la Gazzetta, che comunque oggi ci dice che un grande Tour de France vinto da Bonucci al Milan. Ah, Bonucci al Milan ha vinto la maglia gialla. Comunque, sulla frase i francesi che si incazzano, io mi auguro che vengano pagati i diritti d'autore a Paolo Conte ogni volta che si dice. Spero di sì. Comunque, parliamo della tappa di ieri. Allora, per chi tra di voi non avesse visto questa tappa, una tappa lunga di più di 200 km, dove noi abbiamo vissuto una spasmodica attesa. Abbiamo visto la Sky, la squadra di Chris Froome, tirare come se fosse una lunghissima volata, una squadra veramente potentissima. Per tutti i colli della giornata, sempre davanti, sempre con un ritmo abbastanza intenso, questa situazione è rimasta invariata fino a 300 metri dall'arrivo. Sostanzialmente il gruppo è diminuito sempre di più, si staccavano, c'era la selezione da dietro, ovvero si staccavano i ciclisti senza grandi stacchi, ma il ritmo mieteva delle vittime. Non c'erano scatti davanti, se non un tentativo di Contador, ma veramente brevissimo. Ma quindi una lunghissima volata che si è conclusa a 300 metri con l'attacco di Fabio Aru, che ieri non ha vinto la tappa, è arrivato terzo. Ha vinto invece Bardet, che sullo scatto di Fabio Aru ha preso la sua ruota e poi l'ha superato. Sì, allora, per precisione sportiva dobbiamo dire che il primo ad attaccare nello strappo finale è stato Bennett, e Aru poi ha seguito. Non mi sembra che Bennett sia sardo, però, quindi possiamo ignorarlo. Però è stato il primo ad accendere la miccia, ed è successo quello che non era successo non è mai successo negli ultimi anni, cioè Froome è andato in difficoltà, Aru e Bardet sono stati bravi a cogliere l'occasione, nel senso che noi ci esaltiamo giustamente quando i corridori attaccano da lontano, quando sfidano il pericolo e quando rischiano di saltare pur di dare spettacolo. Ieri, secondo me, sono stati bravi perché hanno atteso, magari avrebbero avuto voglia di attaccare prima, non potevano, perché il ritmo della Sky sappiamo quello che significa, e hanno atteso il momento giusto. Aru ha attaccato, avrebbe potuto attaccare più tardi per vincere la tappa, ma forse non avrebbe conquistato la maglia gialla, ha attaccato a 300 metri dall'arrivo, non ha vinto la tappa, ha preso la maglia gialla, ha mandato in difficoltà Froome nettamente per la prima volta in 5 anni. Però il vincitore è stato Bardet. Filippo, una bella azione, quella ti è piaciuta, l'azione di Bardet? Ma posso replicare subito e buttare subito il sale della polemica sulla trasmissione? Dai. O aspettiamo? Vai, come vuoi, quando vuoi. Siamo sempre pronti alla polemica. Sale della polemica. Io ho una lettura completamente diversa. Sì. Detto che a me ieri la tappa mi ha veramente annoiato e quindi deluso, perché non penso che si possa il tappone pirenaico vedere 500 metri di tappa. Leggevo anche adesso online il bomba alle stracci che è stato in collegamento ieri, che scriveva su Facebook: non avevo connessione, non ho visto la tappa, ho visto solo l'ultimo chilometro e ho capito che ho visto tutta la tappa. E poi sì, c'era un bellissimo titolo di Cicloweb: Aru e Bardet 300 metri sopra il cielo. No, io penso che un po', allora, io non sono così convinto che sia la prima volta che vediamo Froome in difficoltà. Così nettamente io non me lo ricordo. Lasciando perdere il Froome 1.0, quello che faceva le salite a zigzag. il Frum 2.0 in realtà qualche volta in difficoltà l'abbiamo visto, però ha questa particolarità unica che tanto velocemente crolla quanto rientra. Io mi ricordo delle salite in cui Frum si staccava in maniera inopinata e tre minuti dopo era coi primi e ristaccava di nuovo. E questo perché? Perché sulla lunga distanza Frum non è mai stato fortissimo nel cambio di ritmo, a parte qualche frullata leggendaria, ma è sempre stato molto forte sulla lunga distanza. È chiaro che se la lunga distanza che gli viene concessa sono 300 metri, Frum ci perde, ma è anche chiaro che se invece Frum è in crisi davvero, in quei 300 metri risolvi poco. E io non ho la risposta sulla tappa di ieri, però penso che ci sia il rischio che era una tappa in cui Froome non stava bene davvero, c'era tutto il terreno per approfittarne e di fatto nessuno ne ha approfittato, perché sì, il discorso è il solito, ma è cortissima ed è una classifica che tutto sommato sorride ancora a Froome, benché abbia perso la maglia gialla. No, assolutamente Froome non ha perso il Tour de France ieri, il discorso è che attaccarlo prima dell'ultimo strappo significava avere la Sky contro, cioè probabilmente certo, sarebbero anche rimbalzati. Ma anche detto che lo stesso ritmo della Sky, che sicuramente è stato molto alto, non è stato il ritmo infernale della Sky di un anno fa, e la testimonianza è il fatto che comunque hanno scollinato l'ultimo GPM in 12. Vero, anche questo. Lo stesso Contador, che è un corridore che evidentemente in questo Tour de France, al di là, solo Leonardo, se tu gli vuoi un bene spasmodico, per cui non posso usare parole forti, ma no, puoi, ci mancherebbe. È evidente che in questo Tour de France non è certo al top della forma, si è attaccato giusto sull'ultimo stacchetto sul Peresurd quando stavano alzando il ritmo per prendere la discesa. Sì, sì. Io ho detto, no, anche lui avrebbe scollinato quei primi, gli stessi Sky sono arrivati all'ultima rampa che erano in tre. No, io quello che voglio sottolineare è che per una volta il gioco dell'attesa ha premiato chi ha atteso, perché di solito quando giocano a questo gioco vince Froome, perché tutti aspettano, poi l'ultimo a scattare, l'ultimo a consumare energie è Froome e vince lui. Ieri invece chi ha avuto la capacità e la pazienza, anche vogliamo dire che la pazienza è una dote certe volte. Assolutamente, chi l'unica virtù eroica secondo Leopardi. Ed è subito Radio 3, andiamo avanti. Quindi, sono d'accordo. È chiaro che io non auspico, non spero che le tappe, i tapponi pirenaici e alpini diventino tutti come quello di ieri, ci mancherebbe altro. Però ecco, una riflessione che facevo anche ieri, è un ciclismo diverso, è qualcosa che probabilmente non si è mai vista, non sappiamo come possa evolvere, come possa tatticamente i grandi giri, come possano evolvere dal punto di vista dei percorsi, dello spettacolo. Ieri gli ultimi tre minuti sono stati estremamente spettacolari, bisogna fare in modo che lo siano anche le quattro ore precedenti, però un passo alla volta. Quello che ha vinto... È chiaro, scusami, i tre minuti di ieri sono stati estremamente spettacolari, nel senso che si è praticamente arrivati in volata e le volate sono sempre molto spettacolari. Il finale di ieri a me ha ricordato molto quello che sono diventate un po' le classiche delle Ardenne. Vero? La Liegi, la Freccia, in cui aspettiamo per ore e poi vediamo 5 minuti di fuochi d'artificio. E quello che volevo dire è chi ha atteso ieri è stato premiato, se posso usare un termine che non esiste, nel senso è stato premiato sicuramente con la vittoria di tappa. C'è il rischio, e non lo sappiamo, nessuno di noi ha la sfera di cristallo, c'è il rischio che invece questa poi possa diventare un'occasione persa, perché il premio alla vittoria di tappa è il premio alla vittoria del Tour de France. Sì. Forse quando arriveranno con una classifica così corta e Froome gli darà un minuto e mezzo a tutti a cronometro, c'è l'ipotesi che gli Aru, i Bardet e gli Uran si mangino le mani per questa tappa pirenaica. Però non potevano saperlo prima, non potevano saperlo prima che Froome aveva una giornata negativa ieri. Ammesso che sia una giornata negativa poi, perché... Ammesso che sia una giornata negativa, l'unico modo per saperlo prima è stanarlo. Vero, e magari oggi succede qualcosa di più, però... Magari oggi, infatti ne parliamo più tardi. Va bene, ragazzi, quindi ci sono opinioni diverse su Froome, che secondo Filippo, se abbiamo capito bene, gli è andata abbastanza bene, perché forse era in crisi, avrebbe potuto perdere un po' di più. Leo non è molto d'accordo. Gli altri sconfitti di ieri chi sono, secondo voi? Ma a parte Quintana e Contador, Filippo? Secondo me, l'ho detto, sono Aru e Bardet. Ok, hai il coraggio di dire che sono gli sconfitti di ieri, Aru e Bardet. Vabbè, no, ma è chiaro il ragionamento. È una prospettiva che puoi fare a posteriori. Ieri non mi sento di dire che gli sconfitti sono Aru e Bardet, dal mio punto di vista. Questi 300 metri... E poi lo sconfitto di ieri, per quanto mi riguarda, l'ho già detto, lo sconfitto di ieri per me è lo spettacolo. È il telespettatore lo sconfitto di ieri, mettiamola così. Sì, è il telespettatore che ha vissuto una giornata diversa, strana, che non era, che raramente succede un tappone pinanico che finisce in questo modo, però ripeto, magari è un passaggio. È significativo il fatto che per la prima volta la tattica della Sky non abbia funzionato, abbia prodotto l'effetto contrario rispetto a quello che produce di solito. Magari è un messaggio, è un passaggio di transizione, no? È un passaggio in cui dice, attenzione, questo modo di correre, questo modo di interpretare il ciclismo non dura in eterno, qualche volta ti si ritorce contro chi lo propone. Peraltro è una cosa di cui parliamo ormai da mesi, nel senso senza addentrarci in argomenti spinosi che non voglio assolutamente affrontare, però è chiaro che la Sky arriva a questo tour dopo l'inverno più difficile della sua storia. Tra l'altro. E non escludiamo che questa cosa possa avere influenza. Certo, ma invece il caso delle borracce, ci sono state No, penalizzazioni? prima. Allora, il problema del caso delle borracce è che adesso vedo un tweet di Wouters che dice grazie UCI di aver tolto la penalizzazione a Rigoberto Ah, ok, perché Urán. ricordiamo, per chi non Però avesse presente. Wouters, chi lo segue su Twitter, sa che è una persona che penso che abbia uno staff di psichiatri che lo seguono perché non è proprio equilibratissimo e comprensibile quando si esprime. Per cui, non lo so, magari anche un tweet ironico, ci sono 600 punti esclamativi, grazie, grazie, Ah, grazie. quindi non è sicura Però, questa notizia. no, però adesso sto guardando i commenti, perché stiamo facendo l'informazione in tempo reale. Sì, per fare un'informazione ancora più completa, forse ricordiamo a chi ci ascolta a cosa stiamo facendo riferimento. Ovvero, ieri ci sono state delle penalizzazioni perché alcuni ciclisti, in particolar modo il più rinomato è Uran, ha infranto la regola per la quale non è possibile rifornirsi dal proprio staff a 10 km dall'arrivo. Quindi, ieri Uran ha preso una borraccia da una persona che faceva parte dell'organizzazione della Cannondale. E c'è una piccola polemica, secondo me, che lascia il tempo che trova, perché ci sono delle immagini che vedono anche Bardet prendere una borraccia da una persona a bordo strada, ma non è stato punito, Penalizzato. penalizzato con i 20 secondi come Uran. Però la spiegazione è chiara, tu la sai, Filippo? No, beh, la spiegazione è essenzialmente questa. Wouters dice che quello che ha dato la borraccia a Urán non era un membro della squadra, ma era uno che lavora per la Cannondale, l'azienda di bici. Non lo sappiamo perché non conosciamo questa persona, non mi addentrerei troppo in questa vicenda. Ora leggo che sono state annullate tutte queste penalizzazioni, per cui Ah, speriamo, chiudiamola perché qui. vanno bene le regole scritte, le regole anche quelle non scritte qualche volta, però il buon senso alla fine è giusto che Assolutamente. prevalga. Cioè, la differenza, per chiarire, la differenza tra Bardet e Uran sarebbe che Uran ha preso una borraccia da una persona che fa parte Cannondale. dell'organizzazione, invece Bardet ha preso una bottiglietta d'acqua da un passante. Questo non è proibito. Cioè, un passante si può fare, invece uno dell'organizzazione è Sì, proibito. non so se definirei la gente che va sulle montagne del Tour de France passanti, ma questo è un Era altro di passaggio discorso. sul Peyresoult, sul Cioè, Peyragudes. è lì che stava andando a fare la spesa e già che c'era aveva una borraccia in mano. No, più che altro l'unico elemento che possiamo notare è che continua un desiderio di protagonismo delle prime, questo Tour de France. Sì, assolutamente. Talvolta giustificato, cioè poi sono tante regole che tante volte vengono applicate e altre no, e a questo tour mi sembra che le giurie vogliano far valere la loro presenza. Il perché ne parleremo a fine tour o nei prossimi. Poi parleremo anche del discorso del fair play che ieri si è ripresentato, ma sorvoliamo anche perché poi non saremo troppo simpatici magari su No, quello. assolutamente, anche perché. Vabbè, veramente andiamo avanti. Va detto che di fair play se ne è parlato anche ieri sera alla presentazione che abbiamo fatto sul Tour de France a Rossignoli. Ah, vero. Erano tutti praticamente concordi sul fatto che il fair play ha rotto le palle. In realtà Tanto io diplomatici. cito questo fatto solo per ringraziare, approfittarne per ringraziare Rossignoli e tutti quelli che sono venuti ieri. È stata una gran bella serata. Assolutamente, peccato non esserci Non stati. ce l'avamo, noi dove eravamo ieri? Io ieri sera ero a mangiare una pizza, non so tu. Io ero al poetto Tu eri al poeto, e meglio te. non dirò di più, ero al poetto. Ma Invece, noi chiudiamo questa prima parte della nostra trasmissione tornando sul festeggiato della giornata, almeno qui a Cagliari, ovvero Fabio Aru, la sua storica maglia gialla. Ci ricorda l'Unione Sarda che tra i pochi ciclisti italiani aver indossato almeno per un giorno entrambe le maglie dei tre Ah, è grandi vero. giri, insieme a Moser, Gimondi e Nibali. Il Bello. quarto è il nostro sardo. E oggi Alessandra Giardini sul Corriere diceva che è bello, è interessante che oggi è la festa nazionale. in Francia il 14 luglio, ed è come se la bandiera italiana è giusto che non ci fosse, perché bisogna festeggiare i francesi, e quindi Aru, che è il campione italiano, si è vestito di giallo. Assolutamente, infatti oggi abbiamo altri pronostici per la giornata di oggi per i nostri amici francesi. Ma comunque però... chiudiamo questa piccola pagina con un'osservazione, anzi un monicoto, che ci fa il nostro Elio Turnartemalle, che ricorderete ogni tanto ci spiega, ci racconta un modo di dire sardo. In questo caso è un modo di dire che ci aiuta ad abbassare i toni, perché sì, è vero, vedi, Aru, tu ne hai bisogno, mi sa. Tu hai bisogno di abbassare Aru, ma è tutto, è santo, la gioia. Poi domani Aru la perde la maglia gialla, non è un problema, domani, arriverà quinto. Oggi la perde, arriva quinto al fine tour, ma gioiamo finché ce n'è. Finché ce n'è, vive il re e basta. Quindi oggi gioiamo, ma Elio invece ci ricorda che quando è il momento reale di festeggiare. Quindi lasciamo la parola a Elio Turnartemalle e al nostro Il Sardo in Sardo. L'entusiasmo momentaneo nelle persone sagge non deve indurre a ipotecare con sicurezza allori certi per il futuro. La riflessione di oggi nasce dal ricordo di un intervento pubblico di un caro amico che al Palazzo Comunale di Cagliari ascoltò con attenzione il discorso programmatico di un assessore appena insediato e i ricami entusiastici del suo capo di gabinetto. Gli fu chiesto un giudizio a caldo su quanto appena sentito e lui, acceso il microfono, fece risuonare nelle austere sale di Palazzo Baccaredda un vecchio adagio popolare, scandito dalla sua inconfondibile voce. «Il squato su si vinto sarò rada», disse. Il vincitore di una corsa equestre, cioè, è quello che risulta primo a corsa finita, per cui si trattengano gli entusiasmi per ora e si aspetti che squato torride. I cavalli si vedono al ritorno, i squadus si binti a Satorrada. Bello, mi piace. Sì, sì, piace. È molto bello. Credo che nel nostro caso Satorrada sia Parigi o almeno Marsiglia. Le Alpi o anche la tappa di oggi, di cui parleremo tra poco. Ovviamente, è un modo di dire molto diffuso qui a Cagliari e il personaggio che cita Artemalle è molto simpatico e lui... tra l'altro è un grandissimo attore, Elio Turnartemalle lo imita anche leggermente, però noi andiamo con questo monito di Artemalle, andiamo avanti verso uno dei momenti più importanti della nostra trasmissione, ovvero quello dove ci inchiniamo di fronte al nostro sponsor. Inchiniamoci. Quindi, gli orologi? Abbiamo sì, adesso. È il momento degli orologi sbagliati del Tour de France. Forza nonno. Nonno! Che c'è? Nonno, la sai la storia degli orologi sbagliati del Tour de France? Vedi che nonno sta facendo un sudoku? Dai nonno, raccontamela! Va bene, era il 1959 e il Tour de France produsse degli orologi d'oro. Ma poi li ritirarono, perché gli orologi... avevano al posto del numero 12 il 13. Ma perché diamine non mi lasci tranquillo a fare il sudoku se la sai già sta storia? Cosa vuoi da me? Mi fai un regalino? È finita la pace in questa casa. La collezione degli orologi sbagliati prodotti dal Tour de France in edizione limitata. Chiamate all'850 50 80 90 60 70 80. Tutti riceverete in omaggio il volume con la storia della fonduta. 850 80 90 60 70 80. Questa battuta era mia. Ma io sono piccola, no, non l'entusiasmo dei piccoli. Non ti sopporto, ma perché non te ne vai al mare? Uffa. Porco mondo. Guarda, secondo me la giuria del Tour de France dovrebbe prendere provvedimenti contro l'entusiasmo dei piccoli, che non è insopportabile. Beh, ieri i piccoli hanno attaccato a 300 metri. È vero, questo fatto che siano in corridori giovani è insignificativo anche. Però andiamo avanti alla parte social. Via veloce a scoprire come i nostri corridori hanno vissuto la tappa di ieri attraverso i social network, e quindi è il momento di lanciare con l'entusiasmo dei piccoli la nostra rubrica Cinguetti dalla corsa. Sono Questa cosa dire, è terribile. Ho una passione per questo spacchetto. Stacchetto. Lo manderei in continuazione. Si può rimandare? No. No, lo volevo riascoltare. Non siamo così tecnicamente avanzati, però abbiamo come primo tweet della giornata, abbiamo, per chi ha la possibilità di vedere lo schermo, guardateci, condividete il video in diretta, attivate le notifiche così sapete quando andiamo in diretta. Visto che l'orario è così ballerino, almeno la notifica vi ricorda esattamente a che ora andiamo in diretta. Il primo tweet di oggi è il tweet del vincitore di ieri, cioè ovvero è una foto della bicicletta del vincitore di ieri, sulla canna, di Bardet. Ieri Bardet aveva scritto "Take the risk or lose the chance", prenditi il rischio o perdi l'opportunità. Fammi dire un'altra cosa su Bardet, sai che è un debole per lui. Bardet ogni giorno su Facebook, dopo la tappa, scrive un commento, e lui c'ha un modo di scrivere molto particolare, molto ricercato anche. Ieri ha scritto questa cosa per ringraziare i suoi tifosi. Ha scritto: "Grazie per il vostro entusiasmo, il vostro sostegno e la vostra gioia di vivere". Cioè, Bardet ringrazia per la gioia di vivere. Oppure, lui è uno che quando deve parlare del circo del Tour de France, lo chiama l'universo trepidante del Tour de France. Non è che c'è il circo del Tour de France. Oppure quando deve dire che per me è stato un giorno difficile, lui dice adesso mi tocca dissipare la frustrazione. Dissipare la frustrazione. Per dire che ho avuto un giorno assolutamente difficile. È sicuramente una delle figure più interessanti, più complesse, probabilmente che ha più cose da dire nel gruppo, su questo non c'è dubbio. C'è invece un'altra persona sulla quale abbiamo noi delle cose da dire, perché il prossimo tweet che vediamo qua è il simpatico Michael Landa, che finge di strozzare il suo direttore DS sportivo. Sì, il buon Portal, perché ieri, tra l'altro, ecco, prima non l'abbiamo detto, Landa è stato protagonista di un'altra polemica relativa a questi 300 metri così attivi, ovvero abbiamo visto che mentre Froome si piantava su questi 300 metri, su questa rampa, su questo drittone, come si dice tecnicamente, drittone nel senso che era dritta la strada, però pendeva un bel po', su questo, Landa superava brillantemente il buon Christopher e andava mollandolo lì al suo destino verso il traguardo. Sì. Questa cosa, c'è stato un video che è girato sui social network dove Landa gli si chiede conto di questa sua azione, cioè perché è mollato Chris, glielo chiede proprio Portal, ma poi tutto finisce bene con questa immagine spiritosissima di... Di Landa che Portal. Strozza Portal. Però Filippo, forse lo dicevamo prima, lo diceva qualcun altro ieri, forse lui ha lasciato Froome per provare a prendere i secondi di Abbone e toglierli agli avversari di Froome. Penso anch'io, penso fosse la cosa più intelligente da fare, anche perché su una rampa al 16%, quella rampa finale, non è che stai a ruota. Certo. Non serviva a niente stare lì insieme a Froome, e invece serviva andare a togliere gli Abboni, e ci è mancato poco, perché Landa è partito più tardi degli altri e gli è finito vicinissimo. Per cui io vi lascerei, chiuderei l'argomento con una sparata totale, se posso, delle mie. Vai. Secondo me Landa è il favorito di questo Tour de France a questo punto. Guarda, non è un'opinione peregrina. Al di là degli scherzi, se chiaramente non auguro nessuna fortuna a Froome, ma se il caso volesse che Froome dovesse uscire dalla contesa, Landa potrebbe diventare davvero un uomo pericoloso, perché non è così lontano. Ieri a me ha dato l'impressione in salita di andare a passo relativamente tranquillo per i suoi standard. Guardarmi in faccia aveva quasi questo sguardo assente, non sembrava che stesse spingendo. Sì, ho avuto anche io la stessa sensazione. Sì. E poi è una carta tattica importantissima. Già oggi potrebbe essere usato in modo fondamentale dalla Sky, e potrebbe combinare qualcosa di importante. Ma di oggi ne parleremo dopo. Continuiamo a parlare di ieri, di un altro dei protagonisti. Noi scherzosamente lo nominiamo spesso perché lo amiamo moltissimo, ovvero Kittel, che ieri era in fuga. Grande. Il nostro Kittel. Grande, ieri era in fuga e ha commentato su Twitter la sua fuga. Ha scritto: 6 ore e mezza in sella, ero in fuga, è stata un'esperienza speciale per me, ma sarei felice se non capitasse più. La faccina con le lacrime, perché Kittel senza lacrime non va avanti. Vabbè, ma questa ovviamente è una derisione, perché siamo invidiosi. No, grande Kittel. È chiaro il motivo per cui è andato in fuga, no? Certo. Ryan hanno sbagliato, cioè diceva anche era per la maglia verde, ma non è assolutamente vero. Perché ha sentito buon giorbidone, io l'ho dato per favorito. No, ma perché immaginava che la tappa... Sono arrivato lì da prendere il pronostico, ho azzeccato anche ieri. L'hai beccato anche ieri? Avevi detto Bardet? No, avevo detto Kittel. Avevi detto Kittel? No, ma lui immaginava un arrivo in volata ieri e è andato in fuga per provare a vincere anche la tappa di ieri. L'istinto del corridore, lo sapeva. Infine chiudiamo i nostri cinguetti dalla corsa con un altro tweet, questa volta è di McLay, che ieri è arrivato ultimo, e c'è sono due fotografie, una dove lui arriva, taglia per ultimo il traguardo ieri, e c'è una foto di un anno fa invece dove tagliava comunque per ultimo il traguardo. E alle sue spalle c'è sempre il camion ballet, che è la vettura che accoglie i ciclisti ritirati e che chiude la carovana, la corsa. McLay ultimo ieri, ultimo anche nella classifica generale, Filippo? Perché mi fai le domande a sorpresa? Non ho controllato. Ma sulla Lanterne Rouge devi prepararti. Che nel frattempo mi sono preparato su McLay e vi so dire esattamente di quando è quella foto. È la 15esima tappa dell'anno scorso, Bourg-en-Bresse-Culoz, vinta da Jameson Pantano. McLay arrivò da solo a 31 minuti e 45 di distacco. Grande. E qualcuno... l'ultimo Kittel 2 minuti prima. Qualcuno che ci sta ascoltando ci scrive gentilmente chi è l'ultimo in classifica in questo momento, la Lanterne Rouge. Luke Rowe, momento ultimo in classifica. Tom Laser poco più avanti è risalito in posizioni di classifica alle GAC, meglio indietreggiato. Le GAC che giorno, quando c'è stata la caduta di Cataldo, se non sbaglio, lui ha rotto la sella e non è arrivata la macchina assistenza in tempo abbastanza rapido e si è fatto 4 km pedalando in piedi perché non aveva la sella. Grandissimo legame, Olivier. Ma adesso c'è un'altra incombenza, Angelo. Assolutamente, perché i nostri sponsor non sono finiti, è il momento di ascoltare l'altro spot, ovvero quello della Altrecin. Mi raccomando, Altrecin, gli altri, Altrecin. Ok guys, 2 more minutes. 2 minuti. Mi sto rinforzando, pupacci. Altrecin, crema alla teina. Tecnologia asburgica per i tuoi polpacci. Tecnologia asburgica richiesta e necessaria anche oggi anche per oggi. I polpacci dei corridori. Una tappa impegnativa, corta, difficile da interpretare tatticamente. Ma io taccio perché lasciamo presentare la tappa da chi? Assolutamente è il momento di Pietro Pisaneschi con le sue ottime ricognizioni. Ottime, ovvero, per davvero. Sì, ottime, sì, assolutamente. Fa un gran lavoro il nostro Pietro. E ascoltiamo le sue parole sulla tappa di oggi. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della 13esima tappa di questo Tour de France 2017 da Saint-Girons à Foix per 101 km. Se escludiamo le due frazioni a cronometro, è la tappa più breve di questa Grand Boucle, ma con 3 salite di prima categoria a renderla piuttosto movimentata. È il giorno della festa nazionale, il popolo transalpino, come della tradizione, si aspetta una superba prova dei propri corridori, in particolare Romain Bardet, distanziato di 25 secondi dalla splendida maglia gialla di Fabio Aru, il quale è chiamato alla prima difesa del primato. Seppur breve, la frazione non lascerà un momento di respiro al gruppo e ciò la renderà con ampia probabilità una delle tappe più emozionanti di questo tour. Dopo 25 km inizierà la prima salita di giornata, il Col de la Trappe, 5.6 km al 7%, l'asperità più semplice delle tre in programma. Il Col d'Ang risulta impegnativo fin dal primo tratto, segnalata ad oltre il 9%, una salita lunga, seguita da una discesa altrettanto lunga che porterà i corridori fino alle pendici della terza ed ultima salita. Il Mur de Peguer misura 9.3 km e ha una pendenza media del 7.9%. I primi 6 km sono tutt'altro che difficili, ma improvvisamente la strada si impenna vertiginosamente, regalando ai corridori 3,5 km di pura sofferenza, con una pendenza che non scende mai sotto la doppia cifra, arrivando a toccare punte del 16-18%. Dalla vetta del Mur de Peguer mancheranno 26 km al traguardo, una lunga picchiata verso Foix. Il sorvegliato speciale, oltre a Bardet, è Chris Froome. Ci sarà lo scatto d'orgoglio e non solo dopo la tappa di ieri? Per la vittoria, invece, sembra un'ottima giornata per la fuga, magari con diversi francesi all'interno. È tutto per oggi, l'appuntamento è a domani con la presentazione della 14esima tappa. Vi invito a seguire il post tappa, ovviamente su Bidon, e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P. Au revoir! Bene, grazie Pietro, come al solito precisissimo e puntualissimo. Angela, posso dirti che questa è forse la tappa che aspetto con maggiore ansia di questo tour? Certo. Già prima, già quando era stato presentato il percorso, a maggior ragione adesso con questa situazione tattica nuova dove non ci sarà probabilmente la Sky davanti e Froome dovrà attaccare, credo che attaccherà, perché appunto, come diceva Pietro, lui è molto orgoglioso. E poi questo format nuovo, no? Delle corse a tappe, le tappe brevissime con molte salite senza pianura, dove può succedere di tutto, È un format che secondo me, usato in un certo modo, con criterio può funzionare. Sì, evidentemente questa tappa è stata disegnata in maniera abbastanza particolare, è una cosa nuova, c'è stata la grande polemica, ne abbiamo parlato anche noi, se il tour è bello e il tour è nuova per il tour. La Vuelta l'ha sperimentata già l'anno scorso ed è la tappa poi che ha deciso la corsa, quella con l'attacco di Quintana e Contador proprio a Froome, mentre oggi la situazione è opposta, nel senso che c'è Froome che deve inventarsi qualcosa, forse. Vediamo un po', è un po' la situazione nuova effettivamente da qualche anno al tour. Per esempio l'Astana, che è in giallo, come si comporterà? L'Astana dovrà cercare di controllare la corsa e non sarà semplice perché non ha più Dario Cataldo. Fuglsang ha detto che vuole continuare, ma ieri è andato male perché ha queste due micro fratture che evidentemente lo limitano. Non lo so, l'Astana dovrà cercare di... Aru dovrà cercare di interpretare bene la corsa, capire dietro a chi andare, in che momento risparmiarsi, in che momento invece provare lui stesso a fare qualcosa, perché Aru non deve solo difendersi, nel senso che ha pochissimo vantaggio su Froome, sappiamo che l'ultima cronometro, quella di Marsiglia, non favorisce certamente Aru, e quindi oggi sarà tatticamente una tappa molto interessante, secondo me anche spettacolare. Diciamo la tappa regina, potremmo dire. La quarta tappa regina di questo tour. Senti Filippo, tu sei d'accordo? Potremmo vedere una nuova situazione per Froome o piazza lì la Sky comunque va avanti come da 5 anni a questa parte? Beh, di certo non in partenza, non ne ha a questo punto neanche l'interesse, spera, cioè, se c'è una intelligenza in casa Sky bisogna far sprecare energie agli Astana, che sono pochi e non sono certo uno squadrone attrezzato, e poi Froome si terrà i suoi uomini lì, tutto dipende da come sarà Froome. Se sta come ieri è un problema, se sta come al solito è un problema per gli altri, non è un problema per gli altri perché non è certo una tappa con un disegno che favorisce Froome. Però beh, c'è la discesa alla fine, lui in discesa ultimamente qualcosa l'ha combinata. Io mi aspetto sempre che cada da un momento all'altro, ma questo è un altro speriamo di no. Non per gufargliela, però a proposito di fair play, diciamo. No, ma perché spinge sempre al limite e non ha una capacità di guida particolarmente spiccata, e questo, insomma, rischia molto, rischia secondo me troppo Froome in discesa, ma questo è un altro discorso. Non mi sembra che questa discesa sia particolarmente selettiva. No, non è selettiva, forse è più selettiva la salita oggi, e quindi sì, con questo... Ma io leggevo, così faccio una seconda citazione nella giornata di oggi, ci portiamo tutto a casa, c'è un nostro amico, perché l'avete conosciuto anche voi, Gian Gabriele Lodovici, sì, corridore della Popolare Ciclistica di Bergamo, che si è fatto tutto il Giro d'Italia in bicicletta quest'anno, non pago, adesso si sta facendo pure tutto il Tour de France. E cosa dice? Scriveva che la parte finale del Mur de Peguera è durissima, ci sono 3 km all'11%, lui dice che bisogna piazzare il prima possibile perché chi scollina lì può scollinare con un discreto vantaggio. Beh, interessante. Un attimo, un commento. Io penso però che in una discesa come quella si possano ricompattare abbastanza. Io aggiungo soltanto il commento di un ascoltatore, Piero Naldesi, che dice: non è che per caso, lui lo chiama lo show da bullo di Froome sul Colle del Gatto, nasconda una forte insicurezza in generale sua nei confronti di questo tour? Forse, sì, non lo sappiamo. E secondo me ieri non è crollato, nel senso, ha avuto una crisi negli ultimi 300 metri. Se ci fosse stata, se fosse stati altri 5 km, forse avrebbe recuperato e vinto, non lo sappiamo. Però vedremo. Oggi è una tappa importante per capire come sta Froome. È una tappa importante anche... Sì, dicevo che è una tappa importante anche perché ci sono degli altri osservati speciali, che secondo me sono quelli della AG Desert, sì, il nostro Bardet. Sì, oggi secondo me è proprio una tappa perfetta per loro, perché loro hanno voglia di attaccare, hanno la capacità di farlo, hanno una squadra attrezzata, Bardet sta benissimo, e il 14 luglio oggi è la tappa della AG Desert, sulla carta almeno. Beh, vediamo, infatti, vediamo un po', non facciamo pronostici. No, io vediamo. Lo faccio. Ah, lo fai? Io, sì. Ah, dai, vai Leonardo. Vuoi dare un nome secco? Sì, vai Leonardo. Non ti piacerà? Dimmi. Froome. Tu dici Froome? Froome, addirittura? Io dico tu, no. Filippo, dici il tuo nome. Rigoberto Urán. Urán, ah, bellissimo. Anche qualcun altro, Alex, sì. Cattaneo, ha scritto: oggi Rigo vince. Mi vedo uno sprint finale tra una... dozzina, quindicina di corridori e Uran tra quelli. Anche Daniel Martin potrebbe essere un po'. Anche Daniel posso Martin. Fare anche io il mio pronostico? Ovviamente io ci tengo sì. Molto, come sapete ci becco sempre. Secondo me oggi è proprio la giornata di Bardet. Oggi proprio mi aspetto per... Io dico Bardet secco. Tu lo dici con uno spirito non esattamente no. Pronostico. Secondo me, no, ti giuro, sì. Credo che sia il giorno di Bardet. Non vedo l'ora domani di mangiarmi qualcosa di francese. Ah sì? Per Bardet, sì, assolutamente. Vabbè, ti voglio credere, ti do fiducia. Sì, dammi fiducia. Bene, noi concludiamo, salutiamo il nostro Filippo, sì. Concludiamo. Ciao, a domani. A domani. Sì, a domenica, domani vi lascio in pace. Ah, non ci sei domani, ce lo dici così. No, ve l'ho già detto, ma ve lo siete dimenticato, ma gli ascoltatori di Bonjour Bidon così ascolteranno finalmente un'altra voce di Bidon e diamo un po' un cambio. Va bene, allora a domenica, dai, buona tappa, a domenica. Ciao. Quindi adesso noi però proseguiamo, non abbiamo concluso perché c'è l'ultima chicca prima sì. Di salutarci. Sì, l'ultima chicca è un'espressione che si usa molto spesso in Rai e come sai noi vogliamo pian piano che la Rai ci inglobi e quindi ci rendiamo seducenti ai loro occhi che tranquillamente ci ignorano e ascoltiamo le parole suadenti della nostra inviata che è in Francia e sui Pirenei oggi anche e oggi. Ci ha raccontato una storia molto bella. Per forza dobbiamo ascoltarla. Ascoltiamo Fiammetta Ruiu e i suoi resoconti ocra. Questa storia inizia, questa storia finirà. Speriamo questa presto. Storia inizia adesso e finirà tra circa un minuto. Dai. Nel frattempo ci saranno montagne che incontrano cieli, cieli che incontrano sì, terre o laghi o aironi, ci saranno lacrime, ci saranno tanti sogni infranti. Tutto in un minuto succede. Il sogno infranto di oggi è quello di Francisco, che vive su una montagna che incontra il cielo e che incontra la terra. Vabbè. Francisco è un pastore. Ma nel suo animo beffardo e tautologico cova un sogno. È un sogno. Allevare le prime capre coccodrillo dei Pirenei. Che vuol dire le capre coccodrillo? Beh. Forza, Francisco. Cerca dei coccodrilli, trasportali sui Pirenei, costruisci una piscina e convincili ad accoppiarsi con le capre per dare alla luce le capre coccodrilli. Forza, Francisco, dai spago ai tuoi sogni. Bravo. Ma no, ma che spago? Ahimè. Le leggi non scritte della biologia non provano pietà per chi non ha la minima idea di che cosa sia un mammifero e di che cosa sia un rettile. Ma evviva la biologia, altro che... Ahi, dure ed arroganti le leggi della biologia. Mamma mia. Inspiegabilmente l'accoppiamento tra coccodrilli e capre non può avvenire. Inspiegabilmente? Anzi, i coccodrilli cominciano a mangiarsi le capre. No. Il progetto di Francisco è un buco nell'aria. No. Così Francisco... perde la casa, perde la faccia, perde il suo gregge divorato dai coccodrilli e perde anche i coccodrilli sequestrati dalla gendarmeria. Ora, negli occhi di Francisco c'è tanta umidità perché piangono. E mentre una lacrima striscia sul suo viso, un airone azzanna il cielo. Azzanna. Attonito. Ma anche l'airone, che violenza oggi in questo episodio. Sono attonito. No, invece mi è arrivata ora, tanta sorridendo ora per i coccodrilli che piangono. Non l'avevo capita in diretta. E i coccodrilli piangono. Perché tu prendi sotto gamba il talento di Fiammetta. Sto cominciando pian piano ad apprezzare la ricercatezza delle del suo lessico. Bravo, vedi, finalmente, pian piano, l'obiettivo di queste 20 e passa puntate di Bonjour Bidon è rendere Leonardo Piccione un essere umano. Questo è quello che vorremmo, ma non ce la faremo. So già che non ce la faremo. Dunque, per oggi abbiamo concluso, molti commenti, ringraziamo tutti quanti voi. Oggi eravate in tanti, grazie. Assolutamente, grazie di averci seguito, perché Aru è maglia gialla. Beh. L'abbiamo detto oggi che Aru è maglia gialla? Mi sa di no, vuoi ripeterlo? Abbiamo tenuto i toni talmente bassi che non ne abbiamo parlato del fatto che oggi Aru, tutta la Sardegna, l'Italia e l'Europa sono in maglia gialla. L'abbiamo detto, ma durerà poco, perché oggi vince Bardet sicuramente. Prende anche la maglia gialla Bardet, sicuro. Che falso. E dunque, noi vi ricordiamo che è ancora possibile votare sulle domande più sentite durante le dirette televisive. È un post di Bidon, andate a cercarlo, fateci sapere se abbiamo dimenticato qualcosa. Nei prossimi giorni vi faremo sapere chi vince questo contest. Sì, la tappa comincia alle 14.45, quindi avete il tempo di andare in spiaggia come farò io, farvi un bagno, tornare e guardare la tappa che sarà bella. Quindi sintonizzatevi davanti alla TV. Assolutamente, una tappa da non perdere, ma guardatela mentre mangiate qualcosa di francese, che so io, una baguette, una crepe, l'escargot, sì, qualcosa. Anche noi faremo questo. Oggi ci mangiamo crepe, oggi sei contento? Ma io vado in spiaggia, ti ho detto. Vabbè, non si possono mangiare in spiaggia le crepe. Sì, vabbè. Comunque, detto questo, salutiamo con la nostra consueta frase emozionante che... E oggi è estate col ciclismo, che la Francia è bellissima! Questa è la frase conclusiva pensata tutta la notte. Sì, non ci ho dormito. Vabbè, comunque, ragazzi, buona giornata. Domani circa alle 11. Ciao, buon divertimento. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobet.